devo mettere a minimo, sono si schiaffa. Adesso lo metto come la prima, adesso lo chiudo e lo prendo, bianco un attimo. Ma non è che la pallata, è fatto un momento, tanto quello che girava quella carne, un raggio veloce e subito al lavoro. Basta gaffa, non da me. Ehi, ce ne per tutti, ce ne per tutti. Lucca. Ma lo sai che ho visto due antenne, Lucca, lo sai che ho visto due antenne nuove? Oppure io. Ma se una è nuova, la cosa si capisce se non l'ho vista. La matrici cosa, che tu passi lì, vicino a Pisa, vedi quella di Mario, ok. Cioè, quel ce ne sono due, diciamo. Poi va dall'altra parte e ne ho visto altre due. Adesso prima a pezzi. Ma io me lo sono immaginato alla fine, cioè questo che ho passato da dietro e glielo detto, dice sì, forse è così, lo sa. Roberto, fatti un po' di strano a me, già, cazzo, abito qua, li avrei viste, ma dove sono queste antenne? Ehi, scendendo lì, dopo in Canada ce ne sono solo due, sono la mia e una là, basta, ce ne sono altre. E io passo tutti i giorni di Lucca, lo so, ma... Ma c'era la sua mamma che sono abbandonato di antenne. Quelle che ci sono, una va bene, un po' lusiva, l'altra è quella di Lucca, quindi già sta funzionando. L'altra, non so se sarà ascolto, boh. Oh, guappa. Non lo so, ma non lo so, mi sono avuto una concrociata, però non ho fatto lo volevo. E io adesso mi vado a abitare a Marcolinus, e la sto a mano e mi riporto a casa, mi metto la mezza magnata, perché c'è il buco dello zonfo, mi sento un vuoto allo stomaco, fufu. Ma cavolo, io sono andato dove devo trovare, dove devo fare, dove non sono mai andato a cenare. Sì che mi hanno dato, la ventola, ma io tutta la mattina non so con lo stico di Mario, non mi ricordo i panini, come si fa gli esercizi, i panini, questo, quell'altro, io non prendo nulla, prendo solo pure i latte senza pane, senza biscotti, senza nulla. Ma paura adesso il caffè. Ma io all'acqua con il caffè, basta faccio il cappuccino tu. Io non metto manco latte, solo caffè e bu. Sì, ma metà mattina per magari c'è il panino, invece io non le faccio, capito? No, ormai tu non mangio nulla se no che non arrivo a casa. Poi arrivo a casa, mi faccio la classica patacciutta, qualche bistecca e tu magari taccio. Sì, va bene, giusto. Per non fare senza mangiare, capito? Se no poi perdiamo l'abitudine, non casino. Partiti, porca vacca, ogni volta posso fare partiti, sai? Una rossa con... Ah, vabbè, va, scusa, ti grenghi lì, poi io faccio girare la carne, tu parcheggi, e poi ci svegliamo, va. E io vediamo, perché sto facendo questo, infortunato, che si sta parcheggiando. Marco lo saltiamo, ma non era prima di andare da Marco, là, non sa, non ce n'è partito. No, non mi stavo ricordando, Marco non è andato all'asilo, guarda che vinchiato i soldi. Ma non so che era capito, scuso. Che sono suonato, Marco non è andato all'asilo, perché mia moglie non ha mandato che aveva un po' di tosse. Ha detto magari c'è un bel po' di tosse, quindi gli ha fatto la rassola e cosa, e ha detto, voglio però di non mandare prima che si torna ammalando. E quindi non è andato, perlomeno. Non dovrebbe essere andato perché mi ha detto che non lo mandava. Ma poi ha abbassato la moglie, allora per favore, cioè che l'abbiamo mandato, tutto la sbaglia e lui è lì. No, lo so da Manuela, perché tutto lo accompagna insieme, capito? Se adesso quando arriva Manuela, so se è andato a ma poi va a paro, poi di Lucca. Va bene. Già va bene, già va. Dopo la va a caricare Lucca. Luca, attento Luca. Luca mi ha dato una mala. È un fantasma Luca. Papà guappa. Eccomi qua. Ma caricato è tu Luca. Oggi non si mangia. Perché è vuota? Papà. Guarda te. sigaretta. Oh, pippa pippa. Tanto mi domo le domo e le lampi, Mario. E va a parlare, ma bisogna rallentare un po' il passo. Più di un pacchetto, c'ho i pali di giraffe, no, non fumo. Ma altrimenti, se siamo in giostra che sto bevendo, cavolo. E va bene. Vedo. Uno, due, tre, a tua sabbia, allora ma te lo guascio, insomma, andrà bene. Beh, la macchinetta, ti è stata la macchina? Sarà quella finita, come l'uomo è. Ma ho passato tutta la parte meccanica del posteriore della BMW. Adesso la settimana tanto dovrebbe uscire il telaietto di sotto, così io l'attacco. E poi il pezzo l'ho già fatto, diciamo un quarto di macchina c'è, avendoci tutta, alla scocca, e ma la scocca per me voglio la porto una cosa, a farmela cominciare, da Roberto. La fagata? Deve ci vuole un bel appento, no? Da questi piccoli piccoli. Roberto l'ascolto, mi sono a quattro, Ecco, pagata. Ma perché? Per la nuova la scorsa me l'hanno già mandata già verniciata, anche se è un colore che non mi piace, però la BMW è trasparente praticamente, e vorrebbe verniciata. Tu me ne stai facendo male? Allora andiamo a fare le gare? Perché non c'è su, se no sto uscendo la Maserati, c'è in produzione, in edicola, e poi c'è la Citroën, la Citroën la che c'è sulla Dorilli. Cazzo, sono cose belle, ma molto grandi sono, come vengono, tipo quelle che fanno le gare. Cazzo, la BMW lunga 40 centimetri. La Ferrari finita di piazzare dovrebbe essere intorno ai 45 centimetri. La Ferrari è lo stesso su 40 centimetri. Ma tu quella che c'hai, tu l'avevi costruita quella lì? Quale? Quella che hai tu a casa. Ma io la sto costruendo piano piano. Ma la moto stai dicendo? La moto l'ho comprata così. Avevo pagato, in quell'epoca l'avevo pagato 3 milioni e mezzo. Cavolo, e non sto pigiando, no? Vabbè, lui ha detto che è grande. Ma il mezzo lo porto ugualmente, porto a me, non porto a lui. Ma non l'ho fatto pigiando perché oramai è già grandetto, no? Prima quando era piccolino lo vedevo con i capelli lunghi e molto. Allora, prima la trovo quando avevo 3 anni, adesso era un bijou. Ma era tuo quinghellino? No, so. Se non ricordo, i capelli lunghi, biondi. Chiamiamo a me, tu, Luca, ciao a te. Bastatevi il fritello. Ciao Mario, ciao Gianni. Fateli hai. Eia, come mi hai detto tu, siete buonissime. Bruciateli hai. Fuoco lento. Lo che mi giravo, uscite veramente bene, il buco più piccolo ho fatto, io c'erano i ruggi di macchina. Hai visto? Quindi si uscite bene, non le bruciate, quante erano dentro? Sì, erano le fritte? Allora, lì stiamo finita mezzogiorno, alle 3. Delle gonfie erano, avevano già lievitato? Sì, troppo, tre, troppo. E anche troppo, sai quando lievitano tanto si chiude anche il buco? Infatti me ne sono accorto. Va bene, riprendete, dai, che sto lavando in terra. Ah, ne ho fatto un paio con lo zucchero a velo, ma veramente, guarda, sembrava un biscotti. Lo zucchero a velo, buttato sopra. Scappa. Adesso buone. Buone, guarda. Se ne fai lievitare proprio 3 ore, io gli ho messo più arance, più limone, buccia. Veramente buone. Quindi cose buone. Vabbè, sono contenta. Anche la prossima cassetta ne faccio un po' quello di Caravello. Ma è stato franco, gli dice, io non potevo uscire, mi durava a stare, non avevo gana. Vieni, te le prendi, non sei giunto. No, perché ieri a casa eravamo qua, dopo sono venuti amici, eravamo a cena d'amici a mangiare il pane e niente, perché c'era la partita su Sky, c'era la Juve, e eravamo invitati a cena. Però pure ti avrei detto, portami lì qua, tanto che dopo invece poi verso le 7:30 siamo usciti, non c'eravamo a cena. Ma sei sparito? Stavo chiamando, vabbè. Peggio per lui, io devo dire che comunque è buono, veramente buono, buono. Proprio dentro come ci voleva, non erano cotte bene. E infatti, anche che non cucinava, anche pulito una casa maletta, facevano prima una parte e poi all'altra. Che tu buono più strano che lo cucinano dentro. Meglio saperle le cose, Sere, meglio saperle. Cappa, avanti Gianni. Ciao Sere, buonasera, buongiorno anche a te. Eppure, Sere, non è stato Sere. No, non le ho fatte, adesso sono da molto senza farle, minimo 3 o 4 settimane buone. Adesso me le facciamo con calma, perché ero anche di mamma, devono scoprire la mamma, quando ne esce mamma le facciamo un pochettino. Tutto qua, perché quando hai problemi non ti viene voglia di fare niente, però tanto rimane 2 giorni, quando esce le facciamo anche noi, le ciambelle di patate. Cazzo, una di grave, spero. No, penso di no, a quanto ci ha detto il medico, adesso vediamo. Roba di 2 giorni e vediamo un po'. Sì, mi auguro non sia niente, guarda. Cazzo, cazzo. Ha iniziato a tenere quel sussurro, anche a me la poca l'ho trovato un fare, l'hanno messo sul mecchio. Ma adesso la salute sta meglio. Sì, già, ogni tanto ce n'è una. Poi lì c'è anche questa depressione, quest'ansia, da quando è molto babbo, quindi lo sta tornando forte, come all'epoca di prima, forte forte. La ne ho portata anche dal neurologo, e ha dato la nuova cura, adesso c'è anche la nuova cura e speriamo bene. Avanti ieri notte è stato per cambiare, mio fratello l'ha portata a questo soccorso, per il mal di stomaco, c'è stato questo mal di stomaco, e l'hanno tenuta da mezzanotte, me l'ho fatto fino alle 10 dell'indomani mattina. E allora c'è anche l'ansia, amica, lo fa, capito? Se si soffre di ansia per queste cose, anche quando funziona qua, però la pausa che devo fare quando è morta mamma, che l'hanno morta a cazzi, e stava sempre, voglio morire, mamma mia. Non lo so, anche il mal di stomaco è dovuto anche da quello, da tutto lo stress, è tutto un insieme. Però purtroppo gli altri lo sa che si deve recuperare, si sta pensando ancora di più. Ma speriamo bene, la questa settimana la chiameranno, rimane 2 giorni e poi vediamo un po'. Sì, non c'è niente, va. Il tempo ci vuole e col tempo già passa la professione, va. Devo dare il tanto passa, ma piano piano la prendiamo a volo, tanto più ci pensiamo e peggio è. Ecco, avanti, va. Lo fai tagliando la carne, Luca. Cappa, eccomi qua. Sì, salgo, ma ecco che è un po' stufo di mangiare il pistello adesso. C'è un leggero strappo sotto già, sta strappando. Oh, forse è perché c'è il microfono attaccato. No, va a parlare, qua passi di più lungo. E uno che ho preso tutti questi 69 di... Aia, ma no. Sì, se l'aveva attaccato sotto la porta, perché ti dici, non mi senti, allora, ma attacco troppo, non riesco. Sì, adesso le facciamo questa settimana, metà settimana, le faccio un po' di queste ciambelle di patate, perché sono molto senza farle, e ne facciamo un pochino giusto per assaggiarle. Tutto qua. Dunque, Tere, per fare in fretta, non c'è bisogno di fare la... allungare la pasta con la farina, un bucatetto gli allarghi, fatta la rocchettella, lo sentite benissimo a me. Beh, no, io la tiro, la allungo la pasta, è vero, ma non ci riesco, ma vabbè, proviamo. Ma non è facile, la faccio vedere io, ma è un bel freddo, l'ho fatto, guarda, ci ho messo mezz'ora, la saluta giù su due ore, anche non sapevo attiva, però te le ho fatte. Oh no, forse la farina non serve. Ma non mi ricordo, ho fatto un paio di quella lunga, ma ci metto un po' di tempo, ma c'è, fa la pallina, tipo, siccome si attacca, no, quando la giri, io ti puoi fare nelle mani. Poi una volta che ti si stacca dalle mani, poi il buco allarga e la metti sopra la tovaglia. Sì, te lo so, come? Alla prossima faccio così. Vediamo un po'. Tanto quando le devo fare ti devo chiamare. Ah, ma non vedo un po'. Il procedimento tuo, perché tutto può essere corretti, no? Va bene, va bene. Dai, dai, riprendetemela. Io vi saluto, dai, ma è una cosa che sto lavando a terra. Ne ho approfittato che Francoli non è andata a pranzo e mi sto pulendo tutto, va bene, là. Ciao Gianni, ciao Luca, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Ci sentiamo tutte le prossime, due di Gianni. Ciao, vai, siamo calpestati. Ciao Tere, ci sentiamo, dai, buon continuo lavoro, là. Ciao Tere, ciao, ciao. Alle prossime, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Avanti Roberto. Ciao Gianni, ciao Luca e ciao Mario, come si fa adesso? Tutto a posto? Chi sei? Buon Natale. Chi? Buon Natale. Nuovo, sì. È nuovo, sono da una settimana. Sono andato con Parlana. E H, ciao Buon Natale, ben sentito. Comunque ti chiamo altro Buon Natale. Vabbè, avanti Mario per Buon Natale. Ciao Roberto. Ciao Mario, tutto bene? Sto ritardo, non è? Regendo, già te sono caricare troppo, perché bisogna anche scaricare ogni tanto. Aspetta Mario, c'è Babbo Natale, avanti Babbo Natale per Mario. Ma voi c'è da Mario, attento Mario, che una volta che carichi troppo devi anche scaricare, se no è un caso di tutto. Quello c'è il vero, quando si piena è un casino troppo. Beh Mario, avvisi. Ma te si cosa, che lascio un cane in casa, fa sempre maniere, sempre maniere non fa niente, ma te si cosa, per coppia, Davvero, riprendi Gianni? È incapace, sono in mezzo al traffico, Roberto, beh, tutto bene? Sì, sì, diciamo di sì, già, meno male il tempo sta migliorando, speriamo che cambi questo vento e questo freddo. Così a me si fa qualche città in barca. E se avete se riusciamo a usarla, da novembre fermami, dentro il porto. Quel mio amico se ne ha preso una un bel grande, adesso, a livello di yacht. Che ha preso la figlia della Birrenia? Sì, un bel grande. Ci ha venduto l'acqua che c'è un ghelo e ce l'ha preso un bel grande. Quest'anno abbiamo tutta la greffa in giro, dai. Non fai vecchia, che già lo vedo, meglio così. Lui fa il coso, il marinaio, io e lui siamo marinai. Oh Silvio, pensaci tu. Possiamo fare il mosso. No, non faccio di mosso io. Sto guardando le scale, sto cercando il capire dove c'è Antonio. Fatto me ogni abbonturrà di nomi. Dove adesso vuole a casa Antonio, io mi sono. Aspetta un attimino. Attenzione Silvio Berlusconi della Costa Smeralda, se vai copiando qua, K. Silvio! Stamattina oggi non entra. Ma quanto era del telefono tu deve essere quello di Marco, mi Gianni. Marco guarda solo il grabbi. No, è vicino a casa di Antonio quel cazzo di. Quella cosa inquina veramente, fa male. Ah, ma roba civile, non amatoriale. Roba civile. Ma che Marco deve fare un ponte qua? C'ha le direttive, c'ha le antenne, ma non è a ponte. Quella è un'antenna per i cellulari sicuramente. Proprio la lì, sarà tutto il condominio, un bel dinammi. Ma che lo gioco, santo l'hanno dato. Solo che poi si dà la zappa in piedi perché inquina la zona. Lo so. Vuol dire inquina la zona? Fa venire il cancro, mi sembra, no già. Sono radiazioni, buffa se siamo radiazioni. Guarda, ci dice che sono potenze molto limitate. Ma fa male, fa male. Tutto fa male, anche se ti mangi un nuovo fritto fa male, Luca. Però stiamo parlando di cose, di percentuali di radiatori molto basse, incazza. Sì, ma sono molto pericolose, vabbè. Sono molto pericolose, capito? Per quello. Infatti se tu noti, non tu tiri se la fanno mettere sul tetto. Ma la fanno mettere la gente ignorante, ma hai capito che siamo immersi nelle radiazioni? Rispetto a 10 anni fa ne abbiamo 100.000 volte di più, però non c'entra niente. E allora così il progresso non deve esistere. Perché Roberto non c'erano tante cose, tipo il cellulare non c'era tanti anni fa, per esempio. Il cellulare ce l'hanno tutti, da più piccolo al più grande. Perciò, la cosa sta aumentando. Tipo satellitare c'era prima, no? Ma anche il cellulare ti dava le onde radio, c'era attaccato al cervello, te ne dà molto più il cellulare che un punto ripetitore di problemi al cervello, di onde elettromagnetiche, perché c'era attaccata la testa. Quelle lì sono potenze molto limitate. Ma sarà. Poi se non le avessero potuto mettere non le avrebbero fatto mettere, perché ci sono dei limiti di legge e tu non devi superare quei microvolt di potenza. Loro sono anche i limiti, ma molto di sotto. Ma. E chi lo sa, chi lo sa. E me già lo si è rivitto. A casa, mi saluto, ciao. Ciao. Ciao Gianni, buona carica. Mario, ma è andata la faccia tutta. No, sto uscendo. La faccia tutta con la stanno mangiando, la metto in mezzo a due bistecche. Secche, capocrollo. Cappa. Mari Dio. Capo, collo, capo. E Claudio, ho sentito sì? No, io non ho sentito, negativo. Ma Mario è rientrato a lavorare, visto che sabato è rientrato a lavorare. No, non usarci. Carabinieri, ci si osse? Carabinieri, non c'è solo carabinieri qua. Anto. Ora. Anto. Anno. Anto. Sì. Ma la che non mi se ne è andato in 25. Sono non vuol dire? 25 mega, eh. Ma se ne sono andato in 25 mega. Tappa. Sono non vuol dire se ne andato in 25 mega. Cosa significa? Cosa significa? Se ne andato in 25 mega, eh. Non mi sono che parlando. Ma me, mi sto parlando che Baracchino sta parlando. Ho capito. Io questo mi sa Baracchino sta parlando. E Mobicom? Cioè 25 665 il bari, bro. Non ho capito, la 25? Se n'è andato ieri sera, sto uscendo di Gabbo era 25655. Ma 25665. Sono col canale, sa. Oh, poi aspetta, non riesco se è tornata la normalità. Magari, non so, ieri ero praticamente, lo sentivo sul 18. E voi avete sul 10, tutta la qualcosa mi è andato. Poi non rispetto a reazione se è tornato normale come la prima. Capito. Dappa, no. Va bene. E vabbè, Sant'Arrangio a dire. Fai di tutto, scendi il gabbo, Cavolo, sono sul 10 e qua 18, ma. Poi giravo il canale, e mi è apparso questo 25, 665, 775, non me la mai tanto. Comunque, il 25 è andato. Ma che sta fissa il viaggio? Beh, non è un'idea a te. Ah, che sono di PLL. Problema? Di PLL. Ma io così, ma che stai con PLL? Ma se sei di PLL, la cosa è un'idea. L'oscillatore. L'oscillatore di cosa? L'oscillatore di frequenza, quello che praticamente ti dà la canalizzazione. Ah. Ma allora vabbè, lui ha PLL, questo qua è mio, cosa è? Sulla PLL, No, PLL è che è quello, sono tutti quanti a PLL, quelli che non fanno qualità che cane per canale. Ah, capo. Dici che invece Luca stavano di qua e si suoni in canale. Non lo è. Dici, questo è poco, sai, eh. Tocco, ti ho detto, mi senti basso? Mi sono fatto questa attività, perché c'è meno il PRM. Sono col portatile, adesso mi sono avvicinato un po' di fronte dalla bocca. Come mi senti adesso? Mi sono trovato anche fuori perché mi so perché a livello del terreno. Addirittura, ma con la Gran Prix sì? Sì, sono con la Gran Prix, tanto sono nello stesso modo. Non sono più basso del normale, no? No, non è che più basso, non sono del TRM, che praticamente la scarica del TRM si fa per tanto la modulazione. Capa, no, io ti ascolto molto bene qua. Guarda, vabbè, sì, mi sto guardando già con un'antenna diversa, quindi, veramente. Vabbè, continua lo tanto. Cosa? La. Non so, il momento di stesso lavorando. No, tu stai continuando là, cosa stai facendo? Sì, niente, io stavo lavorando lì. Ah. Io sono lavoro a fare. Il sabato, lì, domenica pure, ho fatto la filmazione, domenica. Sabato stavo tirando, però in altri giorni io mi stavo via di lavoro. Vabbè, pensavo che... Ma ascolta, ma cosa hai fatto lì? Quando visto che abbiamo levato la il cavolo di... come si chiama? Ma chi su Babilo ha attaccato un muro? Cattava apparati. Ma la colla come l'ha levata? La colla l'ha levata con un prodotto, soltanto un prodotto, qui si è levato sul nulla, si è levata la colla, poi la si è passata la faccia mezzata nei muri, ha punto bene con gli strati, poi gli ha dato la grappante, poi gli ha dato la pittura. Ah, ma non c'ha bisogno di incamiciare allora? No, non c'è bisogno di incamiciare. Ma sì, che prodotto è questo? Lui, l'altro, che ci ha dato per togliere la colla? No, cosa ho detto? Era voi che sento, che ha fatto della colla a cosa? No, dico, che prodotto ha utilizzato per togliere la colla? Ma guarda, è una bottiglietta di tipo olio dei freni, ce l'ha alta nello stesso modo, si diluisce nell'acqua, la puoi diluire una bottiglia in 25 litri oppure in 20 litri, come vuoi tu, solo che dopo devi stare attento a non tenere tu, in contatto con il tuo. Cos'è, una specie di solvente all'acqua, così è, o cos'è, un acido? Ma è un solvente, praticamente solo per dissolvere la colla, sicuramente sarà uno degli, come si dice, dei reagenti di quella colla che utilizzano i tappezzieri, no? Che sarà reagente, quindi è come lo svernicatore per le vernici. Ma la metti e la lasci fare, tu la cosa devi aspettare molto o si se ne va via subito? No, praticamente tu prendi, bagni le pareti con nulla e aspetti mezz'ora. Dopo mezz'ora passi con lo schietto e di tutto. Ma capa, non rovini quindi l'intonaco, non c'è bisogno di graffiarlo. No, non c'è bisogno se infatti non esageri, perché se esageri molto è capace di tenere anche la tinta. Capa, capa, non lo conoscevo questo prodotto. Sì, ma me l'ha detto l'altro giorno, un amico mette un cioccolato di quel prodotto lì, dice che la passi e poi infatti l'ho preso, guarda, una bomba. Dove? Da De Sole, dove l'hai comprato? No, l'ho preso da Gianni, via Petronica. Via Petronica, no, via Gabriele D'Annunzio. Fammi pensare, sì, via D'Annunzio, con la via dove c'era quel palazzo che stava accadendo che poi avevano sgombrato il tutto. Via Montello, Via Montello. Sì, sì, ho capito, capito. Mi prendi Luca? Aspetta, mi mando un messaggio. Devo mandare. Antenna nuova quando la metti, Anto? Appena fermino un po' di merda, vedo di mettere l'antenna. Ma il palo non l'hai ancora installato, cioè le staffe non ci sono ancora? No, non c'è ancora niente. Siccome devo... mi sono fatto attaccare un preventivo per i pannelli solari. Ah, capa, prima di mettere l'antenna ti devi sistemare il discorso dei pannelli. Voglio vedere un po' cosa mi trovano per i pannelli solari, così una volta che ci sono si fa tutto assieme. Tappa tappa. Piano piano sto andando. Sì, è la vita. La vita è una palla che gira, non è mai il giramento di palle. Sì, dimmi. Anzi, faccio un salto per andare a lavoro, vedo un po' che punto sono. No, ma il lavoro c'hai da fare, o c'ho all'inizio. Sono veramente hanno iniziato in 4 giorni. No, non c'è molto, però già c'è un po' di lavoro da fare. Nel palazzo idrico lo stai facendo nuovo o rimane quello che c'era? No, stanno facendo tutto nuovo, anche perché sto facendo anche un altro bagno. Tutto l'impianto idrico della cucina, del bagno grande, del bagno piccolo, tutta la linea diretta giù in cantina, perché ho la cantina giù, quindi ho fatto cambiare tutti i tubi perché giù dove c'è il battito con l'autoclasma nel caso che manchi l'acqua. Tutto nuovo, dal contattore fino a lì. Una cosa definitiva, quindi sta entrando una casa nuova, è come dentro una casa nuova. Sì, è anche l'impianto elettrico, tutto di una pianta nuova, pavimenti nuovi, bagni nuovi, vabbè. Tutto, praticamente quasi tutto, vabbè. E gli uffici come sono in buono stato? Gli uffici sono buoni perché li hanno fatti 3 anni fa, li hanno rifatti 3 anni fa. Li vedo queste parte me li stacco, me li porto giù in campagna, una rivolata, una passata di compressore con un po' di vernice e li rimetto in sesto. No? Sono un pochettino rovinati dal tempo, ma sono buone. In legno sono? Sì, sono in legno raccati di bianco, hanno un po' di, cosa vuoi, anche un po' di fuliggine, la strada, lo smog, quindi li do una passatina di carta, isolo... le guarnizioni, per sono le guarnizioni nei bordi, quello non le tolgo perché sennò per un casino le andate a cadere. Invece si ritengo perché sono i fermavetri, però le guarnizioni gliela lascio. Ma non c'è poi autonomo, ricordamente autonomo lì? No, per l'installamento sì, sto facendo l'impianto, però mi prenderò una stufa di quelle a pellet collegata ai radiatori. E poi metto anche la pompa di calore perché da fatto voglio il fresco. Gaffa. No, anche io stavo pensando a questo del pelletto. Qualcuno me l'ha fossilizzato, dice questo è con il coso, attaccare al termosifone non c'è il tanto. Sì, c'è il tanto, cioè che non è una casa a 200 metri quadri, però la mia è 85, quindi ancora ce la fa a supplire. No, questo pellet è un sistema molto efficace, io l'ho visto in funzione, c'erano un paio di persone, però su termosifone ancora non ho visto qualcuno, lo sconsiglio se è conveniente una caldaietta normale. Ma lui sta prendendo quella stufa a pellet che c'è sto prendendo, devo prendere quella stufa a pellet che ha quella che non ha il tubo quando scarico fuori, è quella che ha dentro il gruppo di condensa all'interno con i filtri ad acqua. E senza scarico per i fumi, è la tua. Esatto, sì, la scarico praticamente ce l'ha interno con un filtro ad acqua. E beh, poi quest'acqua vuole ricambiata ogni tanto, cosa devi fare? Sì, periodicamente ogni 15 giorni mi hanno detto devo praticamente ruotarla, c'è un apposito, c'è un'acqua che ti danno loro, no? Lo butti dentro un secco, la butti viva, sciacqui il filtro, ripieni lì, rimetti l'acqua e sei a posto. Io non ho problemi di canna fumaria, quella è una cosa importante, perché io se la volevo mettere il problema era questo fatto della canna fumaria. No, ma io vedo, non avrei neanche problemi di canna fumaria, perché nella mia palazzina ci sono le canne fumarie sul tetto. C'è una che scende in ogni appartamento, ma tutto non è fuglio, capito? Beh, meglio non avere un più di scatto. E dove la sta prendendo questa, da capolino? Sì, mi ha fatto un preventivo capolino. Uno me l'ha fatto mio cugino, tramite non so dove si rifornisce lui a Cagliari comunque, dalla Argos mi sembra. Ma cosa ho offerto? Come? Scherzo quanto te lo stanno dando. Allora, quella che voglio io, quella da attaccare proprio ai termosifone, completa di filtro, tutto pronta ad essere utilizzata, e viene a costare, finita l'IVA scontata, 5.125 euro. Grazie, un bel dinasso, un bel. Però nella mia c'è già la pompa predisposta per l'acqua calda anche. Di fare anche la quarta in Italia, fai tutto. No, una bella studia, però sono belli di me. Non lo so, no, per il momento per l'esposto l'ho mandata, da quella pompa fino all'altezza del termosifone, non so, da bagno. Il giorno che vedo che la utilizzo molto d'inverno, siccome la casa ci sono poco, quindi la utilizzerò anche poco, il giorno che vedo che la utilizzo molto, ho la valvola di bypass e la rimando la fa calda in circolo. Praticamente chiudo uno e apro l'altro. No, come il sistema migliore invece, diciamo, evoluto, l'evoluzione è quello che il massimo che puoi avere, però io ho sentito con questo fatto del pellet che sta salendo troppo il prezzo del pellet, perché se ne trova sempre di meno, non vorrei che ecco, tra un paio di anni ti saranno cifre esagerate. Sì, no, rispetto, però la mia non brucia solo pellet, la mia può bruciare anche carbone e anche legnetti, legna di tutti i tipi. L'importante è che non sia a tronchi di legno d'olivo, la mia brucia tutto, dal pellet, carbone, sansa, tutto quello che voglio, tranne chiaramente la mia all'olivo. Per farlo viago, quando ci metti questa roba lì, l'odore dove lo butti via? L'odore è praticamente quello che esce dallo scarico, ma sempre dentro il filtro, capito? Non ho mai visto così fatta quel sistema lì. Cioè, con l'acqua calda qualcuno me l'ha sconsigliato, qualcuno ne parla bene. Per me, in effetti, è una cosa nuova. È come l'installazione delle pompe di calore, no? Sì, sono belle, fanno freddo, fanno caldo, se lo consumano. Tanto siamo avvisi con questo. Io ho detto, l'ho fatto per distorre, però non lo utilizzo perché non sono bagno al gas. Gaffa. No, adesso è proprio il calore che ricordi la faccia, però proprio il calore va bene a far freddo, a far caldo non so da niente. E infatti dipende comunque, perché per esempio se tu hai tipo me, no? Per esempio io rientro a casa la sera tardi, durante il giorno non ci sto mai perché io lavoro una cosa e l'altra, quando torno per pranzo non sto lì a cenare il salone in tua cucina. Però dico, torni a casa per esempio arrivi alle 9, se tu accendi il riscaldamento, la caldaia, per farti il caldo in casa, praticamente cosa succede? Che la navigazione è prima, io ci arrivo, in quell'altro mi accendo la pompa di calore, la stanza dove devo dormire praticamente è calda, mi si blocco, stendo tutto, ciccia, non so lì a sprecare il calore nell'altra stanza e intanto non c'è nessuno. La domenica invece, il discorso cambia, perché se sono a casa allora lo faccio partire dalle 7 del mattino, alle 9 quando mi alzo, alle 8 e mezzo quando mi alzo, e a casa già tutta quanta perfettamente in temperatura, però di scaldare gli altri giorni a me poco me ne può fregare. Di sì, quello di almeno, però dico, il calore delle pompe di calore non è lo stesso caldo che ti può dare un riscaldamento, un termosifone. A chi tu la pompa di calore, cioè caldo in faccia, rimedi direi congelante, mentre il termosifone è diverso il calore, cioè parte da sotto, dal basso verso l'alto. Ma vabbè, non ti credere, no, perché io fino a mio padre in campagna, sì, anche lui diceva, se mi dà caldo, sì, la stanza dà caldo, però giù. Io a mio padre, che è una stanza da 30 metri quadri, gli ho messo una 19.000, me. Ma che curare, 19.000 è una degenerazione, per quello che c'è a caldo, di un grido. Io non ho messo a lui, la 19.000 inverter, e nelle camere che sono piccole, mi chiedo a 15 metri quadri per camera, gli ho messo una 13.000 inverter in ogni camera. Se ho capito, adesso ci sono i camioni qui sotto, burro, hai intendi? Ma no, assolutamente, io ho fatto un guardando. Il calore è eccezionale per il freddo, per far freddo. Io c'ho il termosifone della pompa di calore, però quando mi serve caldo subito attacco la pompa di calore per aumentare, per accelerare. Però il termosifone è una sua musica. Vabbè, non metto nulla, quel termosifone, una volta che la calore se la spegne rimangono i reattori caldi almeno un'ora e mezza, due ore. E quindi una cosa diversa, la pompa di calore come la spegni, se la casa non è coibentata bene, c'è subito freddo, cioè la temperatura scende. E ogni tanto ce l'hai accesa, adesso io ad esempio sono arrivato poco fa qui, per pranzare. Adesso sono in sala, l'ho accesa, perché sono già 24 gradi. Però se la spengo, fra 10 minuti ce ne sono di nuovo 15. Beh, la nostra è così, anche casa mia è isolata male termicamente e acusticamente, è un freddo d'inverno e un caldo d'estate, da morire in me. Ma qui queste qui sono case lunghe, meno male hanno i muri da 60 in cantoni, quindi di fatto sono fresche. Poi gli sposta in maniera avanzata che la finestra c'è un lato e l'altro, quindi l'aria circola. Però rispetto, per quanto riguarda riscaldarla, è un problema perché se la riscaldi non c'è un merugno che la riscalda, però se io spengo la pompa di calore quando sono a 28 gradi, spento un'ora e sono sceso di nuovo a 20, 18. E la so, così, purtroppo. Riprendi Mario, se ci sei. Ho finito di caricare ora ora, sono tutto di alcuni, non è proprio un bussettito, gappa, pubbe. Anche io mi sono messo in camera la pompa di calore, tipo la pompa di calore, più che altro lo uso per l'estate, per l'aria condizionata, anche se non ne usai tu c'è di fama di sudore. Ciao Mario, mi ha sentito anche se sì, così io sono la sua foto di caldo, e l'estate non riesco a dormire se pensa, ma la accendo, bassa, bassa, prima la accendo alta, faccio mi passare la stanza, poi la lascio bassa, bassa, la temperatura giusta. Ora la mettiamo, io la faccio in media 22, dopo che ha messo il scatto, perché sempre questo fa sempre in salaria, la prendo a 22 e rimane tutta la notte a 22 gradi, mi faccio si attacca una fortuna a me. Però, la mattina sono via con sempre il freddo, piacevole, se riesce a dormire si attacca a vengono le spalle, sì, queste cose di onde. Mi fa pagare, però io ne ho messo due nella camera da letto, sia in quella mia che in quella di mio figlio. Poi ce n'è una buccia che era in cameretta mio figlio, lo mette i giochi per l'estate. E poi ne ho una qui in salone, sopra il nuvolo, che già va bene per adesso. E niente, c'è fresco o c'è caldo. Però il caldo adesso è un casino perché la persona mi si è scoppiata la caldaia. Quelli sono rotture, rogne. No, io quando sono venuto qui, che ho iniziato a smontare i mobili giù a casa dove abito io, per comprare quest'altra casa, sono venuto qui a casa di mamma che non c'era nessuno, non c'era niente qua, nessun tipo di riscaldamento, allora momentaneamente mi sono messo due pompe di calore, anche qua ho messo 2-13.000. Ma le grosse te le hai prese, ma io ne ho pagato due piccole, giusto? Io ci sto poco a casa, perché la verità ci sto poco, poi in estate ci sta ancora di meno, così che non è che norma su 2.000 2.000 piccoline in camera da letto sono silenziose. Diciamo che il consumo maggiore però è quando devo riscaldare la camera durante l'inverno, perché mi escono certi trucchi di luce che guarda, noi ripeto, qua la teniamo accesa quando ci siamo praticamente anche tutto il giorno, qualche volta la teniamo accesa anche 5 ore al giorno, ma più di 230 non è mai arrivata la bolletta. Allora mi ha rubata, per un paio di mesi mi ha rubata la bolletta a 350 euro. Quello è un problema. Luca, ci sei? Attenzione, Luca. Luca, un certo. Vabbè, riprendi. Sì, chiamavo Gianni, sei diventato. Gianni, ci sei? Sta prendendo Gianni. No, adesso per pompa il calore è conveniente, cazzo, sono calati i prezzi che è una cosa esagerata. Oh, non velluda, come materiale non c'è niente, ma te le facevano pagare prima 5-6 anni fa, cifre esagerate. Va a 200 euro la Chapiburu da 12.000 BTU. Io per metto poco a casa. Ma è un po' fu. Ah, è carino. Come va? Tutto bene? Aspetta, a parte fisso sì, tutto bene. Quel microfono l'avevo sbagliato poi. Ha bisogno dell'apparecchio tuo, perché in questo qua non va bene. Allora l'avevo potuto parlare. Sai, devo provare la casa tua, là, al limite, domani lo proviamo. Ciao Pomponio. Ciao Anto Barrato. Già sei venuto già a controllare qualcosa. Io sono qui, sono Antonio. Sono Cristo, non Antonio. Ah, mi sa che la voce è uguale, sono all'anima. Vabbè, noi sono dimenticati. Ah, se sei il dimenticato. Mi sono tu, di cosa sentiva lui. Sì, io. Ciao Luca. Niente, ma che ho capito un abbaglio a me. Ma lo voglio io. Non so se Luca ha sentito, ma non si è chiamata a riprendere il stomaco. Va Luca, lo io. Tanto mi è fuggita per aver sentito tutti in altro. Il giorno si trova, Antonio, guarda, te la faccio la canna. Ma qui non c'è Antonio. Antonio è andato a fare, l'avevo chiamato per fare roba. E non sono fuggito in fretta. Anche io sono fuggo ogni tanto, ma... Tu devi solo fuggire, fuggi a fregatene. Stai tranquillo. Ciao Lucia. Ciao Mario. Stavolta andrà bene, ho andato chi entra e chi esce, riserva nel microfono. vabbè, succede, va, nel Antonio, conosco il lavoro, è sopra un gurro di burro. È un cane morto, è che arriva a sistemare qualcosa, non c'è salito a casa di mamma, e quello stavano prendendo le balle a me, con il baetto. E come comprendete nel canale Antonio? E un saluto di stevare tutti non so che parenti in data di sopra e già ci viene lascio stato più libero anche occupato con degli impegni incinto ma come no? Beh io chiudo che devo andare a fare le commissioni urgenti, no, ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti. Ma ok, buone commissioni, allora, buon tutto, ce la riascoltiamo, ciao. Quanto lei? Cosa costa un piede da attaccare alla fila? Ah, lo sai che sinceramente non ho, non so dire, ma penso un 2,50, forse 2 euro di più. Guarda, ma quando lo compravo uno, due, tre, una decina la volevo comprare. Come è stato un negozio? No, volevo fare tutte quante cose per me, dai, come si deve, capito? Ah! Perché sto facendo tutte quante le calate, capito? Capo. Uno va su che possa gestire tutti gli apparati, quelli di su. L'altro va giù che possa gestire tutti gli apparati di giù. E l'altro va giù ancora per gestire gli apparati ancora di giù. E poi i giù ci vanno gli altri spezzoni. cambio apparecchio, quando cambiavo la ronda tra l'apparecchio, capito? Quello lungo lungo invece va la ronda tra a giù. E ma vabbè, se c'è, gnao, bisogna fare gnao. Capito, gnao gnao. Wow. Avanti che c'erano gli altri. Roberto, parla, parla, che parla. Ciao Antonio, mi hai sentito? Ciao Roberto, hai sentito anche a te. Beh, cosa ci dici di nuovo? Più di niente. Battendo anche tu. Eh? Combattendo anche tu. Sì, combattendo sì, vabbè, comunque. Vedi tu Mario, dai. Allora, vabbè, cosa mi dici? Quando lo faccio, lo organizziamo qualcosa là, perché se è, non vorrò fare, lasciare le cose per il muletto, eh. Se ne mi sarà una bella stagione, ci troviamo un sabato, ci mettiamo una cosa e lo facciamo, tanto un paio d'ore perché si faccia tutto. Ah, gatta, gatta. Così lo vado anche un'occhiata. E lui se si può dare, ma giù, non lo so, sono una lucidata gli basta, perché a parere mio vorrà l'immigrata e dato una spezzatina. L'immigrata si può dare anche la verniciatura, però non è semplice, da, perché deve usare prodotti particolari, aggrappanti, eccetera, eccetera, se vuoi fare una cosa duratura. Se lo puoi fare bisogna farlo bene, per fare una gagata dobbiamo lasciarlo così, secondo me lucidarlo, finché dura e poi quando sarà si fa bene. È una giornata brutta, tu hai detto, se no l'avevo scoperta e ti avevo fatto vedere come era. Però secondo me vorrebbe rifatto il tutto, almeno un buon di sopra. Vabbè, la vediamo un giorno, quando c'è una bella giornata, un sabato, ci facciamo una trappata e la vediamo là. Cappa, cappa. E anche perché mi vado organizzare, io ti vado portare due macchine da forniciare, ma non due macchine vetture grandi, due macchinette da 40 centimetri. E quei modelli lì che mi avevi accennato, quelli radiocomandati, quelli lì? Ecco, una la vuoi fare rossa e l'altra mi sembra che la faccio un po' giallo bello, tipo giallo Ferrari quasi, va. Giallo che cosa? Che macchina? Blu. Ma che gialla? Perché bellina gialla, quel giallo che si sta usando molto anche adesso, tipo nella punta. Sì, capa. Vabbè, ma sono colori che ti stufini, meglio, secondo me è bella bianca la macchina, la BMW bianca vorrebbe parecchio, poi ci metti tutti gli adesivi e state un bel. Allora facciamo bianca. Invece la carcassa è già un rosso opaco, però ho capito, la plastica di quella dell'alta. Quella di però la volevo rivalutizzare. Sì, si dà una delicata rossa, la fa bella rossa, ma il BMW bianco è bello. Ma è cappa gatta, ma io stavo pensando con giallo, perché non bisogna avere cose che me l'hanno mandato è gialla. Beh, quelle che fanno le gare normalmente sono tutte quante bianche, quelle che fanno il mondiale, noi mondiale, e l'europeo turismo, il campionato europeo turismo, sono quasi tutte bianche. Ma è cappa gatta. Ma io ce l'ho dalla poco che quando le ho ordinate ci sono anche nel raccoglitore pitturato di giallo. KK. Vabbè Antonio, tu macca non hai. Di cosa lì? Macca, non si è appassionato di mare. No, si va l'acqua a fuoco, meglio messi in spiaggia. Ma Gucci ti metto rubare il bagno dalla spiaggia. Per forza, cosa te la pisa che bevi? Buonasera. Arrivate Galleggio, ciao, buonasera. No. Aspetta un secondo. Ciao, no, non l'ho sentito. Ciao, forse purato. Buonasera. Beh, cosa racconti di bello? E cosa racconti? Sto tutto imbarando, forse purato, ah, vero. Ho più lavori, insomma, ma sono sotto le mani, per carità, una guerra continua, eh. Basta lavorare di più e consumare di meno, eh. Ma è bello che ti vuoi risparmiare, quando una cosa, quando l'altra, per carità, non esce mai io. A me mi sembra che tu risparmi il lavoro. No, la massa, ma... anche tu ci vuoi provare in giro, noi lavoriamo di brutto pure. E lavora a livello, vai che rende di più. No, gappa, che posso c'ho ragione, me. Posso non come la pannuzza, fatto. Io mi lascio sempre quelli. Tanto i restanti sono sempre quelli lì. Non li raggiungi, no. No, molto me la vuole. Sono da una linea che all'altro, per carità, ma vabbè, passeranno anche questi. Questo vanno di arrivare alla fine, in modo da preparare qualche cosa, per quando siamo un po' più grandetti, perché sennò è un casino. Già vivono i tempi belli, non ti ammosciare, stai tranquillo, già vengono i tempi belli adesso, le vanno fuori a Berlusconi, vedrai come si aggiusta tutto. Ma io per quello non ci credo, perché io l'ho sempre detto, cioè a sinistra sono un branco di ladroni, a destra sono più ladroni di sinistra, così che sono tutti ladroni, secondo me non ce n'è perché i signori della sinistra quando gli hanno tolto la poltrona, tra i quali ho contribuito anche io, però hai capito, ma speriamo che questo qui c'ha tanti soldi che non rubi, che non faccia, e invece maledizione, come è proprio, ci ha fatto subito le leggi a conto suo. E l'aria ti dà sempre da quella parte, non ti preoccupare, vabbè, lasciamo perdere, vai. E allora il lavoro sarà... Ah, a proposito, volevo chiederti una cosettina. Questione di pannelli solari, come la mettiamo? Come? I pannelli solari, se ne intendi qualche cosa? Io me ne intendo un pochettino perché li trasporto, li porto, li piazzo, e poi va quello che ha detto a fare le cose, capito? A fare l'allacci, a riempirli di acido, perché ci va un acido particolare che te lo mandano dentro delle bottigliette, e il radiatore va riempito con quell'acido lì, capito? Niente. Comunque, vedo che molti li stanno piazzando, sono contenti perché hanno un po' di acqua calda. E infatti, siccome qua in campagna a me, invece di attaccare, cioè avere uno di quelli e poi magari collegarlo direttamente con lo scaldabagno e essere un po' più tranquillo, vai. Invece di consumare tanta corrente ne consumo un po' di meno. Però il problema è l'ammortizzamento. Vabbè, l'ammortizzamento non te lo so dire come funziona. Perché ce ne sono grandi, ce ne sono medi, ce ne sono doppi, capito? Ce ne sono tanti modelli, ce ne sono piccoli, grandi. Dipende come lo vuoi, tu e come l'ultimo che abbiamo portato lì a Canega, che aveva un serbatoio da 150 litri sopra. E niente, il pannello era un metro sessanta per due. Quello sarebbe l'ideale, tanto sono solo e dovrebbe andare bene, bisogna vedere il pezzo, in euro. E se tu non c'hai i preteri, vorrei sapere io stasera come vado giù, mi fermo e poi io stasera o domani, quando entri te lo dico, non c'è problema. Ok, se fai questa cortesia, poi casomai passo io a vedere qualche cosa e vediamo un po'. Prima cerchiamo di aprire un po' più il sentiero, è quello che volevo sapere. KK9, Junior avevamo due, che li abbiamo tutti e due venduti, di quelli piccolini, e adesso ce n'è rimasto uno di quelli che è doppi. Praticamente è sempre 1,60 m per 2 metri, però sono doppi, moltiplicato per due. Scusate un attimo. Avanti, avanti. Allora io devo interrompere adesso, ciao Manolo, ciao Mario e tutti quelli che stanno ascoltando, io vado a continuare il lavoro di stamattina, ciao a tutti, alle prossime. Ok, buon lavoro, a risentirsi allora. Avanti Mario. Ciao Roberto, buon lavoro anche a te, e ce la risentiamo alle prossime, va. Allora Manolo. E appunto adesso ti stavo dicendo, mi è venuta questa idea di per quest'estate e così anche per l'inverno prossimo, perché qua sole, grazie a Dio. Senza, se non è che piove già non manca, capito? Poi dietro la casa c'è un bel gradino alto, eventualmente li piazzo lì e rimangono già più alti della casa e dovrebbero andare, anche perché c'è il vascone già per caduta, capito? Cappa di positivo, e qua dovrebbe andare bene, davvero, l'ultimo che abbiamo portato, però l'abbiamo portato a Canega, diciamo che è un bel posto perché è alto, perché è sulla collina, andando verso, diciamo così, sotto la Duria, là. Niente, mi sembra che sia contento, tutto a posto. E niente, poi bisogna vedere quanto lavoro c'è da fare, perché non è solamente portare la macchina, un po' bisogna portare i tubi, quei montati fino alla casa, e collegartela sotto l'acqua calda che sta già. Ho capito, vabbè, ma ce ne sono rifiniture, l'importante è partire dalla parete, ho capito, dai panni solari col deposito e poi il resto già viene da sé. L'importante è la partenza, quella che mi interessa a me, il resto sono piccoli. Ma quanto può avere questa moto? Guarda, io ti dico la cassata, però mi sembra che costa intorno a 1700 euro. E allora se ne può parlare. Va bene, grazie e scusa se ti ho disturbato, finita di pranzare, sì. Qua. Infatti per la prima che io non c'entro niente, la mia è la seconda sempre. Il ruttino non ce lo fai, il doppio ruolo. No, io sono educato, non lo faccio queste cose. Il bagno e basta, a me mi hanno insegnato, quindi non li faccio mai sentire a nessuno. E quando li faccio cade il soffitto. Mario, dice, l'altro giorno mi è scappato uno in macchina, guarda, per poco aprivo la capotta nuova. Avanti Mario. Che si sente a Luca, quando ho sentito il dottor Rui, non l'ha mangiato oggi perché ancora si è riempito di frittelle lì, e non è che ha mangiato solo i buchi, no, anche le frittelle. No, ho sentito la voce di Luca, dico che non l'ha pensato oggi perché è ancora pieno di frittelle, col buco. Col buco bravo, col buco. Non lo so dove ha messo la forchetta lui. Io gli ho fatto gli otto buchi, lo mettevo dentro al buco, ma si è cucinato subito. Ma come sono buono, mica, gli otto buchi? Come li ha fatti, ma no? sono trovati bene, poi li ho cucinati a casa, io presento, e poi ci ho buttato dentro i piselli e due patate, e ne ho ancora anche per domani. Ma io ci metto le patate buone, vedi, no? Non mi piace molto, mi piace molto molto così, a parte, ma le patate più forti mi piacciono in tutti i modi, anche con lo spezzatino, però poi sono pure bollate, come sono ancora un po' fredde. E infatti la patata serve più che altro per infarinare un poco, che non rimanga troppo a cuocere la faccenda. Vero Luca, cosa dici, dici tu? Come va con le piselle? Senti, Rottino, senti, senti. Luca, la mamma ci diventa un pasticcere. No, più che pasticcere mi serve un pasticcione. Allora, guardate, ce l'hai o no? Comunque guarda che ti rimango sullo stomaco per una settimana, a me. Ce ne ho chiesto una mezza dottina, non me l'hai mandata, eh? Ma non la colosa. Vediamo le palle, mi senti? Ma no, vero, sei goloso. Insomma, mi sono da fare. Insomma, è anche goloso. Non ne assaggio per una settimana, poi magari la domenica compro una decina di pasta e me ne mangio. Che cosa vuoi che ti dici? Che dici tu? Ah? Vabbè, sei tutta la giornata a me. E via, tu mi fai, dai. Ma poi anche gli altri giorni dovrò fare il colazione del vulcano, me l'hai confessato a me, mi hai detto che ti prendevi anche il colazione. Lui non sa niente. Beh, cosa vuoi? Cappuccino, come lo accompagni? Bisogna negargli qualche cosa, no? Per fare il fondo, il più che altro. È un cornetto, una... Ah, la pesca la divido con l'ica, a me. Metà a me e metà a lei. Anche lei si è abituato a essere goloso, guarda. È bello che bella contenta, se la vedi la mattina come fatti in macchina. Adesso dai che riesci una poco prima, adesso magari... Dio, le piace, no? Sì, guai a te lei, quando... Guai a me se la porti in giro. Come sale in macchina, mi segnala mettere il guinzaglio. Non ti dico altro, mi libera il collo, si muove la testa, fino a che vedo il collare, mi metto il guinzaglio, lei tutta tranquilla, tutta rinnovata, si corica tutta lunga lunga nel sedile, c'è il suo asciugamano, e poi una passeggiatina, è contenta come una pasca, guarda. Adesso sta già girotolando perché non sto uscendo oggi. Sì, credo che faccia come il mio cane. Buongiorno, sono andato a fare la commissione, l'ho detto, non era in macchina, ho dato il proprio destino, ho lasciato in macchina, c'è stata la cuccia lì, quando l'ho lasciato, poi sono ritornato e ho trovato questo amico che ha fermato tra la mia macchina e il negozio. Quindi mi sono fatto un po' di più, a lui quando sono arrivato l'ho trovato, tutto mortificato, i fili dello freno, tutto tracciato. Un attimo il break, basso basso, no, questa poverita no, non tocca niente, guarda, sai cosa vuol dire niente, niente, proprio è brava, dai, non è abituata così, forse con mia madre, ma lui. Comunque a me non mi ha toccato nulla, anzi, quando vado ad accompagnare la bambina a scuola la mattina presto, rimane sul play, tranquilla, si mette un paio di biscottini e tutto quello, però lei non si muove. Poi però guai a non portarlo in giro, perché diventa matta, sta sempre girotolando intorno al tavolo. Avanti, break. Sono affollato, la sto avanzando. Ciao, Salvatore. Sto bene, novità. Ma quando mi lasciano le macchie a me, è che tutto dietro. Boh, che vizio che c'ha il cano? Cappagamma Salvatore. No, mia moglie sono messa in sicuro perché dopo quello la spesa che c'è stata senza aver venduto niente, mi ha dato il smesso di comprare, non se lo volevo lo stesso, la tipica. Ho provato, ma non fa, non fa, non fa, non fa, sentono. Sicuramente non vogliono cambiarti il trimmer. Sì, si è arrivato, meno male. Ah, Antone, cambiare il trimmer si può fare. Ma da quanto vogliono? Bisogna provare, mi sembra che sono 100 kg in una amplificazione, 220, se non mi ricordo male, per la versione del letto. Ma bisogna vedere, sì, è un casino, bisogna vedere un po' la situazione dentro, perché non c'è scritto niente. Avanti, Salvato! Un attimo che mi sta fermando a fare una cosa, metti lì subito in Luca. Via, metti lì, se voglio entrare, cappa. Antonio, appena è... tanto costa una cazzata, allora me li compro. Però, ma cosa vogliono cambiarti? Quelli che sono dentro attaccati alla scheda oppure quelli che sono là al fianco? Ah, no, quelli attaccati alla scheda, insomma. Che l'hai visto? C'è la parecchio di... allora mi metto un nome. Ti hai capito di chi? Di loro da schedare. L'hai visto? La scheda te l'ho fatta anche vedere. La scheda tua aveva voluto una... un biglietto avevi voluto. Perché è molto, molto diversa la cosa di che qua. Questo è un cesso come scheda. Ma la tua è molto più chiara. Non so che dirti, infatti io l'ho regolato, aspetta, io l'ho regolato, no, però un bel veloce, non va a letto lento, tipo tu dici l'unico e poi prosegue, non qua, forse altri dai prima vogliono cambiarsi, no, adesso è la manetta. Esatto, voglio sapere sul trimmer, perché ci ho fatto la stessa prova che fai tu, se tu mi sento, ce la faccio vedere uguale, solo che questa qui ti devo già secondo me quel letto, che non serve a niente. Dopo te lo faccio proprio, te lo faccio sentire, così vedi la differenza che c'è. Ma vorrebbe più letto, la 300 si può fare, ma qua mai cambiare il trimmer si può fare. Nella 300 di Mario io l'ho fatto, e nelle FT 727 il 300 va veramente bene, non ce n'è come con il microfono con l'apparecchio. Adesso il 300 ce l'ho io qua, e gli ho regolato che fa solo il reverbero. Però se tu senti la ripetizione del 300 in quella nelle FT 727 ti mangi le mani. E comunque, questi qua sono a 10 kg, 10 kg tutti e due. Non so, sono anche gli altri, 4 sono, 2 blu e 2 neri. E adesso facciamo vedere quelli di cose, di geggio. Io sono diversi, la pattuglia è uguale, si cambia tutto e 4, gli altri 4 che quello. E poi si fa la regolazione. Tanto buttali. Vieni Mario. Allora proprio questa settimana c'è la parte di andare. Sì, Mario, io ce la faccio finito con lo stereo, non c'è problema. In te ha portato la parecchia adesso, che va per il tuo assoluta. C'è una scommessa in corso. Ma lo prendo io, pochino non lo sentiamo che sono arrivato. Ok, ci sentiamo stasera, ciao a tutti. Ciao, va tutto. Buon lavoro, là. Buon San Marco. E buona serata. Oh, signore, ne ho potuto anche io perché volevo parlare con Pavusini. Un dolore si chiama. Ciao a tutti, ce la riascoltiamo. E vuoi tornare che ti faccio la massa a stasera, pom pom. Ciao, ciao. E via, va bene. Ciao, Mario. Ciao, Mario, buon lavoro, arrivederci. Ciao, Salvatore, ciao, Mario, alle cose. Ciao. Avanti, pom pom, continua con la lezione che ti interessa. Ma non è questo che vedete, perché c'è, io gli effettecco li conosco, ne sono usciti due, uno è quello che c'è in questa parecchio qua che ho io qua, poi c'è l'altro novello, che è molto meglio, capito? Quello che c'è Luca, gli ho sempre detto, quando l'ha perso, che non gli avete toccato 20-20, gli ho detto, sono un po' rubo perché sono guai, gli ho detto, devo fare anche questo, fare anche non c'è problema, io mani non ce le metto, e ho fatto bene a non metterci, perché anche si è trovato incasinato in chili. L'eco che c'ha Luca è veramente bello, non vorrebbe fare, si vale più l'eco con l'apparecchio, la verità si dica, costa quasi 80 euro con l'eco, lo sai. Io lo so che costano quelle cellule, lo so, comunque io c'ho questo, vedo che va benissimo, non cambio, mi conoscono tutti, l'abbiamo conosciuta sempre quella, tranquilla, è tutto lì, lo voglio sentire un eco, te lo mando. Sì, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Cioè, conosco l'eco a voi. Ho modificato anche l'eco del Saturno, ecco una volta. È la stessa cosa di quello che c'è 194 scritto qua, per essere precisi. Comunque lo senti? È morbido, tranquillo e non disturba, anzi aumenta la, diciamo così, la modulazione e basta, e non disturba niente. Tanto lo so, un po' di lo so. Comunque lo vediamo, va? Non disturbiamo nessuno. Avanti, doppio zoom. Questo qua che mi sta dando la matata. Per carità. Vieni, basta salutare, vieni. Pronto. Antonio, provo ad aprirlo. Quello che ho, guarda, ce ne sono, guarda quanto sono. Aspetta, lo dico subito, ce lo dico. E così qua lo ricopro, guarda. Dai, che tappera. Dunque, qua ho provato, Antonio, già, le... come si chiama? Il microfono che c'ha lui, la ZG, l'M600, mi pare, il microfono che è modellone, guarda, ti dico, la radio era, è una potente era, capito già, ma ha cacciato, già. Ma ho chiamato, ho detto che l'altra volta Antonio ha provato un microfono, guarda, la ZG, l'M600 mi pare, con un'amplificazione. Ma sono se ci va bene questo apparecchio, o quello microfono lì. Va bene. Allora, non dico vicino al tuo, ma lì siamo. Come si chiama? Oh, M600, quello che va prestato a Roberto il meccanico. Non mi ricordo, comunque c'è M, cioè da ZG, che è tipo M300 rimane. Quella è la formula praticamente, è un M300. E c'è una M, M600 mi sembra. Sì, quello che ho dato io. No, non è quello che ha dato tu, come ti intendi? Quello che ti ha dato il regalo. Ma tu gliel'hai dato? Allora, ragazzi. Ah, comunque lo c'è bene. Sì, l'avrò modificato, ma noi ci fanno meno male. Beh, se io ci metto quello che chiamo la Luisa, qua guai, guai già. Ma cosa c'è quello di noi, Luisa? Perché sei così forte? L'ho modificato già. Ma tu ora? Ehi, ma che è tutto, ora, te l'ho regalato, ora. Caramba. È un giuglio. Un microfono lì c'ha la capsula del telefono, ma quello c'è bene. Se tu le metti quella c'era prima, c'è una cagata. Ci vuole poco per cambiare. Invece altro dice che le capsule sono tutte uguali. Anche lo dico, ma se non hanno ancora capito, le capsule sono tutte uguali. Ti ho messo in buscare già tu un come cavolo si chiama? Un telefono vecchio, e te infatti la capsula la metti lì nell'MB più 5 e poi mi dirai. Ce l'ha mica quella dell'MB più 5, ma la capsula ce l'ha mica quella del telefono. E tu prova a vedere, poi mettermi la risposta. Ma di che telefono? Di quelli di casa? Sì, quelli bianchi, su, questo che non le batteri erano un bel film, forse non va più. L'ho aperto e non ho staccato la capsula. Luca, sì, è meglio di la scheda, guarda, ci sono i film e te li fatti dare uguali, l'ho già staccata. Capito, no. Ti do la scheda, ma la puoi anche fare i film uguali, capito? Ci sono i valori iscritti, ci sono. Poco costano? Non so poco. Ah, costerà neanche 50 centesimi l'uno, dai, sono 4, sto. No, vabbè, sempre così poco va bene. Sono 5 euro, mi sa, 3 euro, 4 euro, boh, non mi ricordo. Cappa, è meno male, ti viene male a leggere da lì. No, io è secreto, no, perché c'è scritto 104, 103, 102. Poi da un San Luigi, altro che da un Santonello. No, il valore, capito? Sembra una cosa, questa scheda era stata riparata, c'è una saldatura sotto, sembra la zampa dell'elefante, sembra. Ma dai, bisogna cambiare qualche cosa resistenza, no? Non deve cambiare niente, sono quasi uguali al tuo. Sono quattro team, capito? Una amplificazione, l'altro è la questione dell'ufficio e poi c'è il resto, la ripetizione, eccetera. Ma capo, ne sono quattro. Non capisco, forse uno per regolare la velocità, l'altra l'amplificazione, le altre due, Vabbè, vieni, ti piglio la schiena. Poi me la fuggiano, ti fa i suoi valori e sei a posto. Anche se ti vedi qua, non ti ha fatto proprio niente. Ti trovate saldaglielo. Ok, ho tagliato le 300, due. Sempre 300 erano solamente due e basta, quindi sono 4, figurati di. Ma per quale motivo sono 4? Uno la schiena del letto, l'altro invece è il microfono, se permetti. Vabbè, uno è l'amplificazione, siamo d'accordo. L'altro è per ripetere la ripetizione. E gli altri due? Non possono essere due di amplificazione e l'altro per la ripetizione dell'eco. Uno è modulazione. Ma uno modulazione, l'altro amplificazione, l'altro sempre uno in più cerebro. Vabbè, comunque la scheda l'ho staccata, ce l'ho qua in mano. Ma bisogna mettere, bisogna cambiare tutte e quattro, solo due. Ma forse quelli blu che sono a 10 kg. Ma se cambi solo uno, qual è il problema? Se vi fa fare quella la ripetizione dell'eco, uno si fa veloce, l'altro si fa leggermente più lento. Lo monti subito. Basta che cambi quello, si apposta. Ma lento non lo fa, sono veloce. Tanto il timbro ti dà solo la questione di meno 300, se tu li metti di posto tanto ti fa lento, come la 300 non è. No, comunque potevano segnarmi, chi era, chi non era. Un casino, perché ho provato, ma la prima volta l'attaccata veniva male, poi si è scoperto che c'era un altro. Allora si è attaccata dalla colla, qua lì è una specie di colla, e niente, c'era un altro, però ho fatto tutte le prove, ma niente da fare. Non so come sia il secondo, perché c'è una testa in giù, si va solo la prima, si rimane attaccata la scheda. L'ho attaccata e c'era un altro, però non so cosa serve a quello. Io adesso provo a modificare quella di cosa in giù, vediamo come esce, ecco. Davvero un po' come? Già! Oh. Comunque bene o male, la funzione resta anche il microfono. Ecco un attimo, cucchiata piccolino. Passa, saluta. Avanti, Ale. Dimmi, sono qua. Questo va bene anche il microfono. Sì, va bene, ma te c'è il lavoro. Come ho fatto io, c'è bella, non è che c'è male. C'è la mala, c'è. No, se c'è bene. Andate, mi piace molto questo apparecchio illuminato. Che apparecchio? Io, la faiette, la base però, 5 watt, omologata, tutto quanto si usa. Meglio così. Oh mio, bella faiette. Se non sbaglio, quando c'è Luca, non è col conto, se non mi ricordo male. Questo è un R96-10-RB, c'è scritto. Molto altro sindicato del 1300 uguale. Gianni! Poi? Come si chiama? 1, 2, 3, prova. Prova. Senza dubbio sei più sveglio di me. Ah? Sei più sveglio di me. Sì, io? Poi sarò un po' di 4 l'occhio, che è stato. Ehi, c'è la mille luci. E non sono stato già abbastanza, ti giuro che non ho spostato, cazzo. E non ho fatto se sono stato l'altro giorno, quando l'ho fatto bene. Allora, buono, aspetto, l'ho fatto io. Pulito bene, mi faccio la matita. E cosa la matita? E poi rifanno come la prima. E magari ti va per un bel po'. Capito? Capito? sì, cazzo. Prima che non li cambi gli indietro, ma no. Io non so se non chi sarà. Ah, no, camionisti sono. Ah, io non so se nessuno. Vabbè, vuol dire non sono vicino a te, sono che lui ci arribiglia, stai tranquillo. Dimmi. Come hai fatto a fare? A telefono. Va bene? Addormentami con cazzo. Non ho capito. Ma quando mi sto addormentando dico cazzo. Se vuoi troppo, perché ti ce l'ho? Telefono, la cazzo, ce l'ha? Sì, ce l'ha. E tu ne convieni che la me, che nel 2025 sarà meglio con la cazzata di fuori che con la vecchia? Io fino al 2025 con la capsula normale, capito? Non con la capsula telefonica, la vecchia si fa, riprenderà anche in vecchia. Tu ne convieni, negli anni 70, ma negli anni 80 forse, che non abbiamo il telefono che si è stato con me. E come facevo io il microfono normale, andavo a fogliare lì, poi c'erano i rematori che facevano le cose sentiere. Sì, ma... Oh, io ho un microfono Rai Rai su, no, normale, però ho provato a non esce, cioè no, una cagata. Ma quello che non parla? Ma non c'è mai niente già. Basta metterci la capsula di telefono. Non ci sta. No. È più piccola la capsula. È grande questa, ma è grande. Come non esce, bu? Io ci metto 10, metto 16 invece. Andiamo a vedere la cinta. Sono bisogno, bisogna... Quando qualcuno vuole dire che sono le barattoline. Ma ne hai o ne hai uno? No, io ho due. Se tu dici che se ci sono, ce l'ho di qua a casa. Te lo fai uno l'F16 in su, te lo fai, c'è da me. Io non mi fai l'F16. Tu non ti preoccupato, fidati. Si è attaccato un filo, non comincia un oculare dell'F10, non cambia niente. E quello dell'F16 l'ho attaccato alle 1300, capito? Però il microfono funziona. Anche se c'è delle cose del centravetto. Facciamo un punticello, insomma. Vabbè, tutti gli anni la faccio. Ci vuole BMC, ma non mi ammetto più come si chiama. Ma cosa manca il percussore? No, non si dice manca, non il percussore. Slider. Si chiama slider, non slider. No, lo dico, lo slider. Vabbè, comunque il cursore, dai. È un peccato, lo vedi. È un peccato, te l'hai cambiato la cosa da ieri, se non conosco, l'ho provato ma non esce. Cioè, non è che non esce, non è come strano. Sì, beh, c'è tu che vuole cosa farlo. Allora, F16 ce l'ho qua. Ma tu che tu dove c'è? Tu dove nell'F16 di connessione, cosa c'è? No, non ce l'ho più quello là, ho lasciato un altro baracchino che c'ha Maria Luisa, l'ha visto? E quello volevo fare il microfono. Ma perché lui l'hanno tutti cellato a me? Non me l'hanno fatto così. Gli hanno veri qui, la prima sfida. C'ho l'F10 io, c'ho un nuovo nuovo. L'F10 quella c'ha, amplificato, cioè, camera ecco, là va. L'F10 era un amplificato, non funziona più. Quello non si è nuovo. Non funziona più. Peccato la sua gaiaese, sono aggaggiata adesso, sono venuta, c'è una cazzo che sembra questa cosa, è un po' grande, è un po' grande. Sì, già lo so, già lo so. No, no, che se si... è nuovo, non è vecchio. La pulizia sta andando, non è che... se come le sue 16, guai. Qua troppo, comunque, dal volo. Adesso per un sistema altro l'F6 se funziona te lo prendi, poi ricambio la capsula, metto nel telefono e poi ti faccio vedere cambia la resistenza pure. No, no, che voglio rimanere a lui se vede un po'. E poi ti faccio vedere con questo macchino se esce. Cazzo, poi ci adesso di balla. Ti do un saluto di camera, non sai.